circa un mese fa insieme a un gruppo di persone appartenenti, diciamo, al Movimento per la Pace e per i diritti civili dall'Italia siamo stati in Iran. L'Iran, come tutti sapranno, è una repubblica islamica, ma è una repubblica islamica molto sui generis, nel senso che sotto questa apparente realtà ingessata che il regime dei guardiani della rivoluzione, così chiamati, che sono al potere dal 79, anno in cui è stata fatta la rivoluzione islamica alla guida di Khomeini, sotto questa apparenza di regime molto duro e ingessato, che in realtà poi non è solo un'apparenza perché chiaramente è una situazione nella quale la garanzia dei diritti civili, diritti umani, libertà di stampa, di espressione, cioè è molto difficoltosa, però dico difficoltosa, non impossibile, però sotto questo velo c'è una società che si sta evolvendo probabilmente in maniera molto indipendente e molto al di là di quello che il regime sta cercando di governare. Noi abbiamo fatto degli incontri con degli esponenti della società civile, avvocati che si occupano di diritti civili e diritti umani, associazioni di donne, realtà di giornalisti, quindi di persone che si occupano anche della possibilità di diffondere sia all'interno del paese che all'esterno le questioni importanti che stanno attraversando questo paese, che sono quella in particolare delle libertà delle donne e della possibilità di esprimere un'opposizione al regime dei guardiani della rivoluzione. E nonostante il fatto che dopo le ultime elezioni ci sia stata una stretta da parte del governo, perché come sapete sono stati esclusi dalle candidature molti candidati, diciamo, cosiddetti democratici, quindi candidati che appoggiano certe riforme in questo paese. La risposta della popolazione è stata tra l'altro molto, molto matura da un punto di vista anche politico, perché le elezioni sono state praticamente boicottate. Io penso che il valore di questi incontri e di questo scambio che abbiamo avuto, anche iniziale, sicuramente spero che sia anche più fruttuoso nel futuro, è nella possibilità di stabilire dei legami con una realtà di società civile che naturalmente va molto oltre sia le organizzazioni ufficiali che naturalmente gli stati e i governi. Quello che sicuramente a me anche personalmente ha sorpreso è questa grande capacità di modellare la propria azione che hanno quelle persone che abbiamo incontrato nelle proprie attività alla realtà nella quale si muovono, e naturalmente anche dandoci l'esempio di come, anche scontato forse questo elemento, gli elementi di democrazia che noi consideriamo importanti per noi e che in questi anni abbiamo imparato a chiamare anche democrazia dal basso, che distinguendola da una democrazia formale che è quella che sembra ci debba appartenere esclusivamente quella, è che loro stanno costruendo degli elementi di democrazia dal basso e con questi magari possiamo ragionare su come creare una relazione. E naturalmente questo è in completa opposizione con le idee che si stanno affermando, con la dottrina della guerra preventiva, della guerra permanente, dell'esportazione di quella che viene chiamata democrazia, ma io poi penso che sia veramente ormai senza senso, se lo fosse mai stato in precedenza, parlare di questo di fronte agli ultimi eventi di cui abbiamo avuto notizia, ma che erano ben noti a chi stava seguendo anche le vicende dell'Iraq da un po' di mesi, di qual è la democrazia di cui si sta parlando. Bush ieri ha parlato di aver finalmente finito con le torture di Saddam Hussein, dimenticandosi di dire che sono iniziate quelle degli anglo-americani, degli occupanti, quindi è veramente ormai una parola vuota, se così posso dire, ragionare su esportare la democrazia. Noi quello che abbiamo imparato, perché poi in un viaggio di questo genere si impara più che cercare di insegnare qualcosa di cui non credo che noi possiamo insegnare molto, nel senso che si tratta di uno scambio di esperienze, e io penso che noi abbiamo imparato a vedere, a capire con occhi diversi intanto questa situazione che sembra ferma e invece è in grosso movimento. Questo penso che sia un po' anche il senso di questi incontri.